Va ora in onda Caffè e Paglia. Squadra grande, squadra mia, la domenica mi tieni compagnia. Sei lo sfogo alle amarezze, che bellezza quando rimi e vai in gol. Squadra grande, squadra mia, risvegliare sai la mia fantasia. Mentre giochi si scatena un'emozione, e bentrovati, buon lunedì a tutti, bentrovati alla nuova puntata di Caffè e Paglia, il contenitore sportivo di Radio Città Fucico, che si occupa fondamentalmente delle coppe europee. Seguiamo poco i campionati, molto le coppe europee, in particolare uno speciale sull'Europa League. E un saluto a Mingo da questa, all'interno del salotto buono della città. Oggi informazione completa, diciamo che Simone lo vedo ancora un po' agonizzato, un pareggio così, che comunque dà qualche arrivato proprio con la macchia di pi, come si dice, sì, spizzichi e mozzichi, sì, non stiamo bene, non qua, tutto bene. L'anno, cioè, però punticino c'è, guarda, dai. Che c'è chi sta peggio, perché il nostro regista, che si è nascosto nel buio della regia, lo vedo veramente sta pessimista, cubo, ma sta proprio cupo. Sono preoccupato. Ciao, buongiorno a tutti, sono preoccupato. Sei preoccupato, ti vedo preoccupato, vediamo se la luce riusciamo. Cioè, è preoccupato il primo in classifica? Sì. Lui, immagina noi come siamo. Voglio rassicurazioni da parte della stella della trasmissione che non hai ancora presentato. Allora proviamo, vediamo se ti rassicurerà il nostro Fio. Buongiorno, un 5 altissimo a quegli sportivoni e ai nostri ascoltatori, un bacio con lo schiocco a quelle meraviglie delle nostre ascoltatrici. Allora, rega, stiamo calmi, dobbiamo mantenere la lucidità, non dobbiamo cadere nella trappola della psicosi come una squadra rosso-blu che gioca al Dallara, che conosciamo molto bene, che ha dimostrato un po' di instabilità psichica. In realtà io torno adesso praticamente da Roma, è appena arrivato, cioè, capito? Hai assistito all'impresa? Ho assistito all'impresa, a una partita manifesto di quelle che ti insegnano che c'è un piano A, poi c'è un piano B e poi c'è la totale improvvisazione. E si può fare anche in quel modo là, esatto, si può fare anche in quel può modo esistere là. Anche quello. E quindi, visto che noi siamo una trasmissione che si occupa soprattutto di Europa League, partirei da lì nella di prima respiro internazionale, respiro internazionale. Il resto, insomma, seguiamo il calcio belga, figurati se non ci interessa l'Europa in generale, l'Europa League in particolare, in questo senso, perché giovedì c'è stata questa partita, anche noi abbiamo un 4-3 ed è la, insomma, la cosa, arrivano persone strane alle nostre spalle, sono esultanti, avevano la divisa, c'è scritto polizia locale, non so per quale motivo, però dicevamo appunto che anche noi abbiamo il nostro 4-3 in un certo senso, no? Che è un risultato storico nel mondo del calcio, una partita che è stata vinta, persa, rivinta, ripersa. Io ho avuto problemi alle coronarie ed ero in un ristorante davanti alla TV. Per fortuna mangiavo pesce, buon pesce. Sì, qua a Bologna buon pesce. Sì, ho trovato. Ma che cazzo, sì, sei che sono di Chioggia. Questi sono di Chioggia. Okay, okay, e quindi è per quello che è il pesce. No, beh, anche adesso questo è un altro discorso. Il mercato del pesce in Bologna non è così male. Nel senso che arriva prima da Milano. Ridire, però va bene. Prima Milano. Prima Milano, poi va, anzi, prima Bergamo. Bergamo, ultima vincitrice dell'Europa League italiana, intanto così. Giusto. Arriva prima Bergamo, poi Milano, con l'Inter che vince lo scudetto, e poi arriva Bologna. Questo, poi, il pesce. Ah, non devo dire niente, no, su Bologna. Okay. Sul pesce di Bologna non devo dire niente. Comunque, 4-3, dicevamo, con appunto coronarie che, per chi non era allo stadio, sono saltate. Io immagino, Fio, che le tue siano saltate un paio, almeno due o tre volte. È stato veramente un tappeto volante che ci ha tenuti incollati per quelle due ore là, comprese le interruzioni tra un tempo e l'altro, un supplementare e l'altro. Una partita in cui l'idea era quella: se giochiamo a calcio può succederci veramente di tutto, e fortunatamente abbiamo giocato a calcio. E la squadra messa in campo da Italiano era la miglior formazione possibile, sì. E la Roma recupera parte degli infortunati che mancavano nella gara di andata. E si vede già che la cifra, quella lamentata in conferenza stampa dopo la partita del Dallara da Gasperini, cioè queste squadre che si affidano ai portieri per lanciare a capo, queste squadre che saltano il centrocampo con dei lancioni, ma cosa piangi Gasperini? Di lavoro fai quello te. Cioè, è inutile che costruiamo delle narrazioni autoassolutorie su il modo di giocare a calcio quando tu stesso pratichi quel modo di giocare a calcio là. Squadre che si assomigliano fino a un certo punto, perché gli interpreti, soprattutto davanti, hanno caratteristiche diverse. Castro dal primo minuto fa vedere che sportellerà, e a sportellare sportella. E soprattutto perché all'andata era stato veramente contenuto in maniera anche spesso al di là del possibile da Andicà, e quindi aveva subito molto, era uno di quelli che avendo giocato bene il Bologna nella partita d'andata, Castro era uno di quelli che aveva avuto più problemi. Entra con la cazzimma giusta e con la voglia che comunque gli riconosciamo a prescindere, anche quando non faceva gol, gli riconoscevamo questa sua capacità di stare in campo in un certo modo, e a suo giro fa gol e assist, quindi non è che gli puoi dire oltre alle sportellate riesce a fare gol e assist. Ma proviamo a riavvolgere il nastro e ritorniamo a quella partita per raccontare come proprio gli eventi in una sfida all'Olimpico, in un campo caldissimo che si presenta dove però voi negli ultimi 2-3 anni ci troviamo bene, la cavate bene, sempre queste vittorie gol bellissime è un bello stadio. Allora, primo evento game changer della gara, poi ti faccio finire. Il primo game changer secondo me è Vincenzo Italiano, a cui andrebbe fatta una statua per il semplice motivo di essere uno dei due allenatori di tutto il movimento calcistico italiano a giocare con la difesa a 4. Cioè, sì, è uno dei pochissimi immune al virus del 3, della difesa a 3 o della difesa a 5. Veramente andiamo a contare, saranno 2-3. Quindi bravo lui. E primo evento dell'imponderabile della gara, la sostituzione al 20° di Manu Koné, giocatore molto importante negli equilibri della Roma. Lascia posto a Pellegrini, che sarà uno dei migliori dei suoi, comunque glielo dobbiamo concedere. Con noi comunque spesso... Con noi si avvelena facile. Fa qualcosa. Manu Koné era acciaccato, aveva giocato contro il Como, era stato uno dei pochi positivi della partita contro il Como, con la sua fisicità e il suo movimento senza palla tra le linee a cercare nuove linee di passaggio. Dura 20 minuti la sua partita, il risentimento che lo aveva panchinato nella gara di andata si ripresenta. E lì succede già qualcosa. 2 minuti dopo c'è il primo gol della partita, ed è un gol del Bologna, ed è un bellissimo gol del Bologna. E lì Castro fa la parte della sponda nel primo gol del Bologna, sponda per un Rowe che sta crescendo di partita in partita. Ormai sono mesi adesso, che parliamo di Rowe. Adesso mi sembra veramente forte sia nella fase offensiva che la vedremo dopo. Nei primi due passi di Lascialio. Quella l'avevamo vista anche subito. Adesso c'è anche una voglia di recuperare il pallone e di combattere molto più alta di come l'aveva all'inizio. Non a caso poi un gol arriverà, il gol di Castro arriverà proprio da una palla recuperata in un certo modo da Rowe. Però torniamo al primo 1-0, torniamo al gol dell'1-0, e allora tu tifoso del Bologna sei lì all'Olimpico, in un Olimpico infuocato, e dici vado 1-0, me la sto anche meritando, dai, i ragazzi sono in campo nel modo giusto. Poco dopo arriva il pareggio della Roma, quindi il pareggio della Roma arriva in un momento in cui tu pensi adesso lo stadio esplode. Sì, arriva in un modo in cui puoi aspettarti che arrivi, diciamo, il Bologna di Italiano ha, oltre al fatto di giocare un calcio molto dispendioso che se non sei al 100% ti espone a molte problematiche quando l'altra squadra gioca. Ieri abbiamo visto perfettamente quello che può accadere, e è il non capitalizzare i calci piazzati a favore e non necessariamente gestire benissimo quelli contro. Il gol arriva da calcio d'angolo, segna Lica, che è il top scorer dei maggiori campionati europei dell'ultimo mese, è una roba devastante. E sul gol c'è un tentativo di strangolamento di Vitic che si vede solo riguardandolo. Il simpatico, diciamo, Mancini riesce a strappare anche la maglia strattonandolo al collo, quello poteva esserci, però rimane il gol. A quel punto pensi lo stadio è carico e quindi devi poter resistere, diciamo così, al ritorno dello stadio e della Roma, no? E da un certo punto di vista io ho detto speriamo di finire 1-1 questo primo tempo, la chiudiamo sull'1-1 e ovviamente insomma dopo ce la giochiamo. In realtà il Bologna riesce a tornare in vantaggio, un rigore non furbissimo. Posso dal punto di vista di la palla di Berna fantastica, che lo sto dicendo io, certo, la palla di Berna in effetti, palla di Berna perfetta, e finisci il primo tempo 2-1. E questo ti ridà un po' energia e carica e positività. Quando poi vai sul 3-1, puoi immaginare, si sbocciano, si aprono bottiglie. In quello spicchio di olimpico, molto, molto bello. Anche al ristorante, io parlavo al ristorante, si stampavano bottiglie. Una trippa di Rospo, no, grazie. Facciamo boete per tutti, così, insomma, robe di ordini a caso. Costo, dopo alla fine, costo altissimo, ovviamente, della cena. Però. Per un bel Bologna, per quello fa, per fortuna, è finita così. E arriva sul 3-1, ti senti, non dico tranquillo perché sei comunque il Bologna, sei comunque l'Olimpico, sei comunque lì, però dici insomma siamo presenti e ce la giochiamo tutta. Arriva il 3-3, cioè 3-2 e poi il 3-3, e a quel punto sempre quello l'esatto stadio, contrario, sempre quella cosa, sei lì, l'inerzia è completamente nelle mani della Roma e sei lì con le braghe di tela ovviamente un po' tremolanti, e arrivi ai supplementari. Nei supplementari tiri fuori, prima dei supplementari, prima del racconto dei supplementari, il tifoso del Bologna ha di che discutere delle sostituzioni del nostro allenatore, perché ovviamente a un certo punto il nostro super allenatore toglie i tre più forti, quelli che stavano giocando meglio. E questa che è una cosa che i miei amici bolognesi mandano ai matti sui social, quando sì, fanno gli commenti, escono completamente. C'è un'esplosione. Ed entrano Cambiaghi, Dall'Inga e Orsolini, no? Tre. Bernardeschi, Castro e Rowe, che erano quelli decisamente i migliori in campo, quelli che avevano appunto entrano dentro, e quindi una buona parte anche di di dubbi, diciamo così, iniziano a galleggiare. Poi è assist di azione Cambiaghi Dall'Inga, con un assist di Dall'Inga che ricorda un po' la palla di Bernardeschi prima, ma forse ancora meglio in un certo che senso. Che gli va a dire, ha tolto i migliori in campo sul 3-3 con l'inerzia della partita totalmente contro, e vince la partita con un gol costruito da quelli nuovi entrati. Dai due nuovi. Dimmi entrati. Che cazzo gli vai a dire un allenatore così. Vai, anche perché, cioè, guardandolo allo specchio, nei supplementari Gasperini sostituisce Selic per cercare propensione offensiva con Brian Saragozza, il brevilineo che qualche fastidio lo ha dato nella gara di andata al Dallara, e adesso è lui sulla graticola, i romanisti impazziscono. Dopo a quel punto è il cambio totale, Cambiaghi che segna tra l'altro sotto lo spicchio dei tifosi. Ancora della Madonna, Bologna, tra l'altro ancora stupendo, bellissima azione, più fida, bellissima. Con tanto, secondo me, immagino anche, visto che eravate lì e l'avete visto proprio bene, anche vero, un vero, po' di paura, vero. Perché sì, quando sbatte sul palo e inizia a muoversi di là, perché lì lo spicchio dei tifosi del Bologna è proprio... era una traiettoria perfetta per vedere. Era la prospettiva da cui la palla sembrava più lenta nel mondo. Cioè non c'era un punto da cui... Infatti va e si sposta proprio di poco, quindi insomma gol clamoroso, e il Bologna passa il turno a e questo si va punto, a Birmingham, si torna a Birmingham. Che ormai è diventato uno dei classici, è un Manchester City Reale, poi c'è Aston Villa Bologna, esatto, sono quelli per la prima volta, ci sarà Bologna Aston Villa, ecco, però nel classico dei classici, vero, per la prima vero volta la versione vedremo anche la versione casalinga. Ora bisogna tirare una linea e accorgerci di una cosa fondamentale: Vincenzo Italiano è clamorosamente il miglior allenatore d'Italia nelle coppe europee degli ultimi anni, perché credo che sia stato eliminato, no, negli scontri diretti mi sa che non è uscito mai. Allora ti dico, credo o una volta o mai, no, allenando Fiorentina e Bologna, ragazzi, negli ultimi anni ha fatto due finali, allora, con la Fiorentina ha 12 vittorie consecutive nelle sfide uno contro uno in Europa, ma non solo, ha perso due partite di scontri diretti, perché assommiamoci pure la Coppa Italia che è che ha scontri diretti, certo. Le due sconfitte che ha avuto sono entrambi ai rigori e con la Coppa Italia vinta, una vinta e una persa, quindi finale. Quindi parliamo di... Ha perso con l'Atalanta ai rigori e con la Lazio col Bologna ai rigori. Le uniche due sfide in cui lui è stato eliminato in un incontro testa a testa negli ultimi 4 anni. Non allenando mai la più forte delle due squadre presenti in campo. Cioè, parliamo di un allenatore che sa come si fa l'uno contro uno. Qual è il problema? Il problema è che va a scontrarsi contro forse l'unico allenatore al mondo più bravo di lui in questo, ma forse veramente l'unico, che Unai Emery, ricordiamo la Coppa UEFA Europa League, la conosce piuttosto bene, sì. Cioè, espone la manita di Coppa UEFA nella bacheca di casa, ok? Anche lì, non allenando sempre il Siviglia praticamente, forse l'ha vinta una con un'altra squadra, adesso non mi ricordo quale, però dovrebbe essere 4 col Siviglia e un'altra ancora. Quindi parliamo dei migliori allenatori d'Europa negli scontri diretti. Eh sì, per farla facile, insomma. Esatto, no? Voglio dire, in questo momento. Ora, il tasso tecnico dell'Aston Villa è un filo superiore al tasso. Quanto in Premier League? Esatto, cioè, vuoi dire. E anche leggendo soltanto i nomi ti rendi conto che il tasso tecnico dell'Aston Villa è un filo superiore a quello del Bologna, ma bisogna stare attenti perché questa è una bella sfida, è diciamo 60-40 Aston Villa, okay? forse 55-45. Sei molto ottimista secondo me. Sì, no, perché sì, per due motivi. Spero di sbagliarmi, semplice. Grande impresa, al prossimo turno la vedo più che difficile. Sopravvalutate tantissimo le squadre inglesi che vi ricordo hanno preso un sacco di botte in Champions League, ma proprio ne apriate tante, ne apriate. Quelle sopra l'Aston Villa, non quelle sotto l'Aston Villa. Quindi andiamo, andiamo a vedere con chi sono usciti. Le hai prese tante, ho capito, ma tu sei tra le prime, tu sei la Mega Premier League e sei la Super Saiyan dei campionati. Io ti dico che l'Aston Villa è più forte, perché è più forte, con un super allenatore. Però tu te la vai a giocare tranquillamente, ti vai a giocare le semifinali d'Europa League, ok? Io sono convinto che Bologna se la può giocare bene. All'inizio di questi playoff probabilmente ritenevo Aston Villa e Roma Aston Villa, Roma e Lione le tre squadre forti, più forti, sì. Alla partenza due di queste tre non ci sono più, una l'hai fatta fuori tu, una l'hai eliminata tu, quindi insomma è ovvio che è. E le restanti sì sono squadre interessanti, però diciamo così il Nottingham che ha vinto con il Nottingham è quello che vi ha comprato la superstar a 45-50 milioni e non lo fa giocare, e non lo fa giocare, quindi no ragazzi, va veramente in bocca al lupo per il prossimo turno, è molto molto molto difficile. Poi ho visto uscire l'Inter con il Bodo Glimt, quindi insomma ci può stare, però teniamo presente che dei due rami del percorso che porta alla finale noi siamo in quello pesante. Sì, dirà Braga, Betis, Friburgo e Celta di Vigo che noi abbiamo battuto a casa e che ha eliminato il Lione, credo che abbia, è quella che ha fatto il colpo sul Lione, che era prima testa di serie, diciamo così, nel girone precedente era appunto prima. Bene, direi che questo è quello che sarà, vedremo, il Bologna se la gioca, ne parleremo perché ancora c'è una pausa in più. Ricordiamoci, questa settimana la nazionale si gioca. Benedetta la Madonna, cioè, ci arriviamo dopo. Prima fammi mangiare qualcosa. L'ammissione ai mondiali dopo un sacco di tempo. Abbiamo chiuso quindi la parte della Europa League. C'è sulla Serie A seguiamo meno. Ma, e quindi sì, possiamo dire qualcosa. Il Bologna si ha giocato con l'altra squadra di Roma. Ma neanche ci interessa tanto. La squadra di Roma è Frosinone. Okay. Una squadra che ride e piange contemporaneamente come Bob De Niro negli Intoccabili quando è all'opera a vedere la cavalleria lussicana. No, i pagliacci. Oh. Dove vi ricordo che però Sean Connery è tipo. È un malone, si chiama come me, sicuramente è un tuo. Adesso un non voglio cugino, dire nulla, non tuo voglio cugino dire, irlandese. Non voglio dire nulla. E una partita che sembra un'amichevole estiva, ieri al Dall'Ara, brutta quanto basta. Un rigore conquistato da Santi Castro, migliore in campo dei nostri, che al momento della battuta viene assegnato a Riccardo Orsolini per emanciparsi dalla abulia da gol che lo caratterizza negli ultimi mesi. Va sul dischetto. Bella risposta alla mancata convocazione nazionale con le palle. Complimenti. Sì. Scusa, ma perché sarebbero dovuto avrebbero dovuto convocarlo? A proposito, c'è qualcuno del Bologna che è stato convocato perché l'infortunio di Chiesa, leggevo prima, Chiesa proprio, che ha giocato 600 minuti in stagione, quindi era una convocazione comunque poi ne parliamo bene. Comunque non sarà della partita Chiesa e hanno scelto Cambiaghi, quindi di oggi proprio, di stamattina credo, la decisione di convocare Cambiaghi, che anche l'altra volta era stato convocato dopo e si infortunò. Lo ricordo perché avevo mandato un messaggio nella chat di famiglia. Nella chat di famiglia sono contento che non abbiano convocato Cambiaghi. Il tempo di che era in quel periodo, era in formissimo, sì, era nel top della sua forma, era incredibilmente il più forte esterno del Bologna in quel momento lì. Insomma, d'Italia non ce n'erano tanti. Venne chiamato e si infortunò. Posso dire una cosa, però? Per Maurizio Sarri però sono felice, perché era tipo la terza vittoria consecutiva, ha riassettato un po', no? La strada della Lazio. Per uno come lui mi dispiace che è proprio contro di voi, però se proprio uno deve vincere a Bologna, almeno a me è Maurizio Sarri. A me è molto piaciuto che, al di là della stampa che lo racconta come questo avventuriero con la scimitarra in mano, ma non è mai stato vero, gioco offensivo, aggressivo, spregiudicato per forza. L'idea tattica della Lazio di ieri è: in un calcio di Lancioni che salta al centrocampo, qual è la nostra arma in più? Mettere un centrale di difesa in mediana. Patrick della Lazio, migliore in campo. Devastante. Volevo aggiungere per chiudere il discorso. L'aveva già impiegato contro il Milan. Vero. Con ottimi risultati. Con ottimi risultati. Vedi, l'allenatore è bravo. Ma Sarri è bravo, ragazzi. Aggiungiamo che uno dei due rimanenti a giocare con la difesa a 4 in Italia, oltre a Vincenzo Italiano, è proprio Maurizio Sarri, che anzi è un nemico della difesa a 3. L'ha sempre dichiarato che è un nemico della difesa a 3. Quindi noi, sia allenatori, dobbiamo... Anch'io un po' la odio. Dopo anni, poi... Comincia a essere... Ne parliamo bene dopo con la nazionale. Ne parliamo dopo bene in nazionale. Allora dai, chiudiamo questa prima parte, andiamo con uno stacco musicale, poi dopo ci buttiamo in una super top 5. Stavo riflettendo. Ieri abbiamo giocato in 10 con la presenza di Thuram in campo. Che cosa hai fatto, Marcus? Torna presto. Ci sono anche messaggi al 333-180-94-94 che ritornano anche lì su cose che avevi detto tu. Sono messaggi anche per te, per il regista, che sarebbe regista. Terza partita con rigore solare, forse due nel finale su Pio, trattenuta la maglia in maniera stravistosa, sono almeno 4 punti che perdiamo. Concordo, ma non ci possiamo sempre lamentare. Stai fermo, non è finito. Scusami, ascolta. Ha ragione. Concordo alla fine. Sta nervosissimo. Voglio nascondere che siamo in affanno, ma le partite si vincono anche grazie al regolamento che vieta di toccare la palla con le mani. Così è per tutte le altre squadre tranne che per noi. Sulla difesa 4 c'è anche Spalletti. Inutile Maloni che fai l'annoiato. Comunque ha detto rispondere l'ascoltatore. Posso rispondere? Come si chiama l'ascoltatore che ha scritto? Tommaso. Caro Tommy, hai ragione al 1000%. No, però ci sono anche altri problemi, secondo me, allora, per quanto riguarda l'Inter. Il nostro amico Tommaso, che è un grande, chiude con anche Spalletti. Gli voglio ricordare che noi abbiamo fatto la più immane figura di merda agli europei nella storia della nazionale, perché Luciano Spalletti abbiura la difesa 4 per sistemarsi a 3 dietro, per mettere nella posizione di comfort zone i difensori dell'Inter. Quindi è vero che Spalletti si costruisce la sua legacy con una difesa a 4, ma nel momento in cui doveva usarla decide di abbirare e portarci tutti in una valanga lì. Beh, ci ha dovuto adeguare. No, l'allenatore vero rimane a 4 e sfangura quei 3. Probabilmente hai ragione. Poi vediamo. Posso finire di leggere il messaggio. Che mi sembra articolato e ben fatto. L'Inter ha fatto 2 finali di Champions League con la difesa 3, una negli spogliatoi, l'altra in bilico fino alla fine. Anche il Manchester di Pep aveva la difesa 3. La difesa 3 non è proprio sinonimo di gioco brutto, di ripartenza. L'Inter di Zaghi per me è una delle più belle mai viste per quanto riguarda il gioco. Ho finito di disturbarmi. Ottima osservazione, non disturbi assolutamente Tommy. Poi c'era un altro messaggio che chiedeva di un ristorante di pesce. Merita una risposta. Di Giuseppe. No, poi rispondiamo a Tommy. Ah, ok, poi rispondiamo a Tommy. C'è un altro messaggio, giustamente lo segnalava. Buongiorno Giuseppe, potresti dirci il nome del ristorante di pesce? Perché anche noi abbiamo voglia di mangiare bene. Osteria della Pace, lo dico così. Ma sì, guarda che ci vado. Vai, se mi di lui è un problema. Io vado al serio. Vogliamo rispondere un attimino a Tommy, ha ragione, perché per esempio l'Hoffenheim di Nagelsmann, che giocava con un 3-2-3-2, ok, o 3-2-2-3, era uno spettacolo di squadra, per non andare troppo alto con Manchester City. È vero che la difesa, il 3-4-3, lo dico qua, è proprio il mio schema preferito, ok? Quindi non siamo contrari al 3-4-3, siamo contrari al fatto che qua da noi il 3-4-3 si legge in realtà 5-3-2, che diventa 5-4-1 5-2. Molto spesso. Il problema è quello lì, il problema grosso è quello lì. 3 o 5, questo è l'analisi. Comunque, a proposito di 5, c'è la top 5. Oh, tantissima, grande Tommaso, gran bel messaggio. Tantissima carne al fuoco, bravo, anche del pesce. Ragazza interista di calcio ne sa. Bravo Tommaso, bravo Tommaso. Adesso vado di là, adesso vado di là. Bravi questi nostri ascoltatori che col loro flusso creativo ci portano dentro una top 5 monopolizzata ma a modo nostro, quindi va un po' dove gli pare, dai temi che riguardano la nazionale di calcio, che ci regalerà una pausa fatta apposta per giocare contro una squadra che se perdi sei proprio neanche l'Irlanda vera, l'Irlanda del Nord. Vabbè, non ci avveleniamo prima. Siamo stati capaci di peggio. Abbiamo fatto la Macedonia del Nord, ricordiamo. Inizio anni 80, l'Irlanda del Nord era una signora nazionale. C'era Pat Jennings, te lo ricordi? Sì, certo. Che adesso avrà 92 anni. Ma anche Norman Whiteside, secondo me, il giocatore più giovane che giocò ai mondiali. Sì, l'Irlanda del Nord. Del Manchester United giocava. Manchester United, bravissimo. Ma così vecchi ce ne vuoi due? Sì. Facevo di meno. Inutile l'evidenza. Allora, visto che c'è dell'interismo nei messaggi che circolano, che arrivano al 333-180-9494, partiamo da un punto in top 5 che rende merito a l'unico che ha fatto di lavoro l'attaccante in una squadra che, se non c'è Lautaro, non lautareggia. E le difficoltà offensive dell'Inter nelle ultime partite sono palesi. La partita di ieri al Franchi, che è fatto in quel modo là, con quell'ambiente lì, quella gente là intorno, comunque è brutto per tutti giocare a Franchi, lo capisco, ma al primo minuto più Esposito fa un gran bollo, rischia di farne un altro altrettanto bello, ma non lo fa. La partita finisce in pareggio. Più Esposito è convocato in nazionale, sì, ed è giustissimo che lo sia. Grande palla di Barella, che purtroppo dopo rovina tutto sul gol della Fiorentina, perdendo una palla sanguinosa che manda in porta Andur per il definitivo 1-1, punto pesantissimo per la Viola, contro l'avversaria. L'Inter secondo me ha giocato i primi 20 minuti da grande squadra, poi si è spenta. Il secondo tempo non ci siamo proprio, non siamo entrati in campo. C'è stata un po' un'accensione negli ultimi minuti con un mezzo arrembaggio finale, però non basta, insomma, fuori adesso. La prossima è Inter-Roma il 5 aprile. Inter-Roma, partita sarà non banale. Una banale. Vittoria nelle ultime 6 partite, l'Inter Coppa compresa, quindi non è proprio un bel periodo. Non è un bel periodo, e vi ricordo che c'è Bologna-Inter all'ultima di campionato. Che comunque, questi se ne perdono un'altra vanno in psicodramma violento. Pare che il regista abbia detto che nel caso di sconfitta di questo brucerà il calendario dell'Inter in piazza. No, non ci credo. Pagato 14 euro. Un calendario. È un calendario che copre tutto il 2026 o che copre il campionato 25-26? Ma non li spendevo nemmeno il calendario del 2026. Ma nemmeno per il calendario della Canali se spendevo questi soldi. Lucy, anche per quello della Canali. Comunque. Punto pesantissimo, chiave salvezza per la Fiorentina, che in caso di salvezza c'ha 30 milioni di euro di riscatti già pattuiti, esatto, ricordiamolo, affascinante, e che vede il suo probabilmente unico giocatore positivo appieno di questa stagione, Nicola Fagioli, proprio lui, non convocato da Gattuso per questa competizione. Stiamo parlando delle convocazioni, entriamo nel merito. È tutto nel merito. Andiamo questa statistica. Parliamo di un coach, di un selezionatore, perché di questo si tratta, che per giocarsi la partita della vita, per evitare di saltare il terzo mondiale di fila, convoca una squadra intera di difensori, perché sono 11 difensori convocati. Ok, partiamo da questo presupposto qui, perché poi questa è una carta che fa scopa sulle dichiarazioni di Gravina insieme alla foto di Rito con Visci e Albi, del programma di rilancio del settore giovanile, bliblim bla blam blam blam, e poi finisci che chiami 11 difensori per giocarti la partita della Vir, dove dovresti convocare almeno 35 attaccanti. Così. Entriamo nel metro delle convocazioni, c'è gente che non gioca e però continua ad essere convocata in Frattesi, gatti, che ne so, Raspadori, Chiesa, che poi tra l'altro si fa male, quindi è dovuto arrivare Cambiaghi. Siamo sempre lì. Io ero convinto che Gattuso si armasse un attimino di coraggio. Se proprio devi convocare qualcuno, per esempio, non è mai bello il gioco, non ha convocato quello perché ha convocato quell'altro, però c'è gente come Bernardeschi, come Zaniolo, che per carità, esulando dalle simpatie personali, sono due che stanno giocando benissimo da settembre. Buono spunto questo per il prossimo punto in top 5. Andiamo in una piazza che negli ultimi anni ha fornito sempre più talenti alla nazionale e anche all'idea di nuovo calcio italiano. Andiamo a Bergamo, parliamo dell'Atalanta. A Bergamo vediamo tra i convocati spiccare carne secchi, protagonista della vittoria di misura dell'Atalanta contro il Verona, che vabbè, giusto noi potevamo dargli un bel brodetto caldo, tonico e rassodante. 1-0 vince l'Atalanta, protagonista appunto carne secchi, che sarà dell'attenzione con la maglia azzurra addosso. Non c'è tra i convocati Zappacosta, che è in grande, grande ripresa. Non c'è neanche Bernasconi. Non c'è neanche il giovane Bernasconi. Zappacosta segna il gol che vale 3 punti per i bergamaschi e fa una partita sontuosa. Tra l'altro segna dopo una ripetuta di affondo e cross, nell'occasione in cui decide di non affondare e crossare, ma accentrarsi e tirare questa palla velenosa che Montipò vede partire mai. Passa in mezzo a 1000 giocatori e va ad appoggiarsi. Possiamo dire che è la convocazione, come al solito, molto molto molto antica come metodologia. La convocazione del gruppo storico che ha fatto già tutti i gironi di qualificazione, e continuiamo a fare lo stesso errore, cioè questo qui. Se questo gruppo storico di giocatori che tu hai convocato ti ha portato a questa situazione qui, è chiaro che forse qualcosa non è andato, perché solo tu non stai a fare i spareggi contro l'Irlanda. Se ti va bene, proprio ne devi giocare un altro ancora. E quindi lui ha puntato sulla promozione del gruppo che, dell'ultimo anno, diciamo così, senza stare a guardare il momento di forma dei giocatori, senza stare a guardare se qualche giovane potrebbe entrare e mettere in rotazione la titolarità acquisita di altri giocatori, e è la solita mancanza di coraggio. Ora, magari va bene così, cioè, speriamo insomma che vada bene così. Nella pletora di difensori convocati, i due giovani sono due bergamaschi, perché uno è Scalvini, l'altro è, anche se gioca a Cagliari, l'abbiamo detto molte volte, sono protagonista di molte, non potevano chiamarlo. No, ragazzi, se non convochi i palestri nazionali devi proprio cambiare. Puoi smettere. Però per esempio Anor, che è un mix di atleticità, intelligenza tattica, tecnica rare, fortissimo. Poi ripetiamo, andiamo avanti ancora, c'è qualcuno a visi Gennaro Gattuso che, anche se non sembra, ma Caio Dei italiano non sembra a lui, magari capito, esatto, magari c'ha delle informazioni sbagliate, però mi risulta essere italiano, cioè quello è uno che tu devi chiamare. E per i prossimi l'ho 10 visto anni, recentemente combinare dei disastri contro, ma perché sta con qualche squadra inglese, se non mi sbaglio, sì, basta che torna da noi, se fatti scherzi, no, può attraversare il momento, no, quello è Sunderland sicuro. Forse però ragazzi, però non ti puoi presentare agli spareggi per andare ai mondiali con della gente che più o meno non conosce nessuno, se non i veri appassionati, e poi magari ma esci perché anche. Non puoi. Perché poi, chiamando giocatori esperti un po' ti deresponsabilizzi anche, secondo me. Chiami i giocatori in teoria sulla carta, i migliori che puoi chiamare. Ma regista, che significa ti deresponsabilizzi? Tu sei l'allenatore della nazionale, sei tu che ti devi responsabilizzare. Non puoi andare a fare un lavoro con il concetto di deresponsabilizzarti. È un selezionatore, cioè, non è un allenatore. Allora, mi state piacendo, perché il concetto di età e responsabilità ci avvicina al prossimo punto in top 5. Bravo. Andiamo al centrocampo, perché tra i convocati c'è un giovane che sta crescendo, sta facendo molto bene e è un po' la stagione della sua consacrazione tra i grandi. Parliamo di un altro Niccolò Pisilli della Roma, uno dei migliori in campo nella vittoria per 1-0 contro il Lecce di ieri. Tra l'altro segna un giovanissimissimissimo Robinho Vaz, che fu contestato come acquisto proprio dai romanisti, dalla piazza. Ovviamente dopo 3 partite era già stato battezzato. Lui si procura in Europa League il rigore. Rigorino, che se Freuler non mette 2 mani sulla schiena di Robinho Vaz, magari non vediamo neanche fischiare, ma quello è rigore tutta la vita. Non c'è polemica. Fatto vedere male, sì. Sì, totale. Meritatamente convocato in quota giovani. In quota responsabilità, invece, io spenderei sei una parola su un giocatore che effettivamente di responsabilità gliene sono state accollate, un po' se le prende lui. Ieri abbiamo visto in questo fine settimana che forse è meglio, cioè non possiamo buttargli la croce addosso perché non è detto che la sostenga. Parliamo di Manuel Locatelli, che nel pareggio sanguinoso tra la Juve e il Sassuolo, un rigorino ino alla fine ce l'ha sul piede lui e lo tira probabilmente peggio di quello di Orsolini. Sì, può essere. Centrocampo, ragazzi, mi viene voglia di piangere. Perché cioè, il nostro centrocampo è Barella, che sta attraversando un periodo di forma. Osceno. La stagione, molto sottotono. Più di un anno ormai. Cioè, che Cristante, sotto toro, Frattesi, dai. Locatelli, Tonali, Pisilli. Tonali rotto. Tonali rotto. E l'unica cosa, l'unico lampo di luce è veramente solo Pisilli. E tutta gente che ha già giocato, scusami Simone, insieme in nazionale, quindi magari non ha voluto Dado, smettere. Io ti ricordo che tu sono 8 anni che manchi dal mondiale, quindi non, la devi smettere di parlare di quello che è successo prima, perché quello che è successo prima è una cacca. Tu non vai ai mondiali da 8 anni, quindi se tu mi continui a dire perché prima era sbagliato, non so più come cazzo dirtelo, cioè non ci sei ai mondiali, in Europa fai schifo a livello di club, cioè fai schifo sia a livello nazionale che a livello di club, quindi se tu mi continui a dire perché già c'era avuto l'esperienza, è proprio quello il punto, è che l'esperienza di prima è sbagliata. Ma io provo, la risposta era dentro di te, però era quella sbagliata. Provo la lontana a ragionare con la testa del mister. Allora andiamo, ti giochi tutto un po' anche la carriera, che Gattuso. Vabbè, no, ma io mi auguro che ce la faccia, se no raga è un'altra estate a bestemmiare, però cioè, serviva coraggio, perché guarda che quelli là, gli irlandesi, arriveranno con tutto il coraggio di sto mondo, di tutto, cioè i giocatori dell'Irlanda, gente che di professionisti ce ne sarà due, gli altri sono tutti capitano delle giovanili oppure gioca in qualche campionato ridicolo e verranno col coltello. Serie minore inglese. Bravissimo. Vabbè, certo. Cioè, è quello il discorso. Andiamo un attimo a Juventus Sassuolo. Allora, partita che la Juve affronta così, con una certa leggerezza. Il gol, bello. Molto bello. Rilancio perfetto di Perin per Conceição, Francisco Conceição, che vive là imboscato, isolato sul suo out di destra, vive lì, lui vive lì nei pressi della linea di fondo. Ma lì deve stare, perché lì fa i danni li sa fare lì, quindi piccolo brevidino agile, piede educato, la mette in mezzo perché Nanildiz, che tira molto bene e non può nulla il grosso portiere del Sassuolo, Muric, appunto, il grosso portiere del Sassuolo, un portiere con un dinamismo sotto la media della Serie A, ma di grande presenza tra i pali. Ora, non è difficile in teoria per una squadra con molte soluzioni di tiro da fuori, dalla lunga distanza, e fare gol a un portiere del genere. Una cosa che la Juve però poi non riuscirà più per tutta la partita. E prende gol, l'azione è molto bella. Itzes, Volpato, Berardi, Pinamonti. Molto bella l'azione del gol. E poi c'è solo Muric protagonista, arriva il rigorino ino che Locatelli decide di tirare in quel modo. Nella Juve non c'è un altro che può tirare rigori così. Cioè, così, non un rigore. Sì, però è una polemica che è nata già da un po', l'ha tirato David, l'ha sbagliato David, era Locatelli rigorista e quindi questa era la scelta. Adesso a prescindere da quello, è ovvio che è un pareggio, mezzo passo falso che inizia a pesare perché c'è una squadra che vola e che non si può nominare. No, la nomineremo. Purtroppo è un grande fuoritema per questa top 5, ma è un punto di questa top 5. Ma non ce n'è ancora uno prima, dice. No, questo lo facciamo. Sì, Teniamolo per ultimo. Andiamo avanti. Missing, quelli che non ci sono in questa top 5, no, quelli che non ci sono nelle convocazioni delle nazionali. C'è una traccia sottesa tra quelli che mancano. Gente che gioca all'estero, giovani e giovanissimi, ma soprattutto fa specie vedere una lista di convocazioni di un allenatore di grande cuore rossonero senza neanche un giocatore del Milan. Non c'è neanche un giocatore del Milan. Chi dovrebbe chiamare il Milan? Ricci e Bartesaghi. Bartesaghi no, perché è in Under 21 e qui dopo ne parliamo un attimino perché il discorso è un po' che va frammentato e ricomposto bene. Tra l'altro questo kick ci serve anche per raccontare del rocambolesco 3-2 tra Milan e Torino, con un Toro che si presenta D'Aversa alla fine ha dato vita a questo Torino. Ha dato una bella pensa come sono messi. Facciamo sempre come solo dalle basi. Il Milan che a San Siro in casa si presenta con la divisa del Cesena un po' metallizzato. Però con quel bianco perla, sì, un po' vorrei, ma non posso. Siamo anche sempre lì, regista, siamo sempre lì. Tu, Milan, non puoi entrare in campo sembrando il Cesena. Però. No. No. Anche segnato il Cesena. Ha segnato il Cesena. Citazione. Leggenda, citazione leggendaria. Di contro, una divisa bellissima del Toro. Devo dire, onestamente, molto bello. Che ci dice quest'altra partita? Almeno la maglia è decente. Eravamo appunto su Milan Torino, un Milan che dà sempre quella sensazione di meno rispetto a quello che, insomma, i giocatori ti potrebbero quasi permettere di fare. Del Milan, cosa segnalo? Ho visto, come tutti noi, l'intervista, la conferenza del loro coach, in cui parla rimanendo sul discorso nazionale, parla un po' del calcio italiano in generale, convintissimo del fatto che, siccome si è, appunto, come diceva prima il nostro regista, fatto sempre così prima, partendo ad esempio proprio i Fortini del Medioevo, testuale, mi stai dando dell'allegriano? Dimmelo, per rimanere sul discorso, è che quello che andava prima abbiamo sempre fatto così, ma si è sempre fatto così, e vi ripeto che si è sempre sbagliato. Quindi, Simone, ma tu hai ragione da vendere, però è uno spareggio per andare ai mondiali. Quindi, sai, è difficile magari proporre cose nuove in partite così fondamentali. Ti dico questa. La Croazia meravigliosa dei mondiali del 2018, ok? Sai perché arriva a farsi la finale contro la Francia? Perché a 3 giorni dagli spareggi contro la Grecia, se non mi sbaglio, per qualificarsi ai mondiali, mandato via coach e l'intero staff tecnico per prendere non mi ricordo chi, che però li porta ai mondiali. Quindi queste cose, questi momenti qua si affrontano non con la comodità del passato di prima, che ti ricordo ti ha portato in quella situazione di cacca in cui sei, ma si fa con l'esatto contrario. Però potevi mandare via Gattuso per fare... No, non sto dicendo di mandare via. È subentrato. Chi chiami? Padre Pioli. Sto parlando dell'atto di coraggio in sé, non di mandare via Gattuso, ok? Però, ripeto, stiamo continuando a convocare gente che ti ha portato in questa situazione. Mi sembra che sia concettualmente sbagliato. Alcune scelte, tipo anche quella di Chiesa. Chiesa veramente non ha giocato niente tutta la stagione. 600 minuti in stagione. Stava pensando a Verratti. Guardate che quello stava pensando a Verratti per davvero. Che fa? Cioè, mi spiego che cosa voleva fare Gennaro Gattuso, sì? Sì. Verratti. Diciamo che, allora, gli equilibri, l'aziendalismo dei coach della nazionale è sempre stato un tema, però... Cioè, a un certo punto stiamo anche esagerando, però è un processo che arriva da lontano. Non è, forse proprio la nomina di Gattuso a selezionatore è stato l'ennesimo passo, l'ennesimo mattone di conservazione dell'esistente con ogni mezzo necessario. Ma sì, ma su quello, cioè, la non svolta arriva da lì. A quello siamo pronti, però dico Gattuso magari... Vediamo, è una scelta che lui fa, è ovvio, si assume le responsabilità. Chiedo una cosa, manca un punto ancora alla top 5, sono 4. Chi avreste convocato del Como, del Super Como in questa nazionale? Oh, bravissimo. Il Como, Goldaniga ha giocato un minuto. Goldaniga, assolutamente. Ha giocato solo Goldaniga di italiani. Un minuto. Solo Goldaniga. Il punto sul Como si chiama Como. No. Il Como vince 5-0. Stravince, gioca in casa, dominando totalmente. Contro un Pisa rassegnatissimo, stanco, con uno sgabello in porta. A me dispiace. Non ho ancora capito l'esonero di Gilardino. Per prendere Iljemark, che è più che uno stagista. Una grande Serie B l'anno prossimo con Iljemark, non lo so, mi sembra un po' spericolato. Tieni Gila fino alla fine della stagione. Anche secondo me, è molto difficile non parlare bene del Pisa, parlare del Pisa, perché non c'è una prestazione da commentare. E le uniche cose che puoi dire sono cose non belle sul portiere, che è responsabile su 4 dei 5 gol. Però il Como domina, padrone del campo, manda... importa chiunque, quasi chiunque segna, tranne Goldaniga, che non ha segnato perché ha avuto solo un minuto in stagione per giocare. Ora, una squadra che ha avrà grosse difficoltà per affrontare la meravigliosa competizione europea che senza dubbiamente affronterà nella prossima stagione. Mi sono informato, quello che tu dici da un po' di mesi non è corretto. E fai informazione non corretta. Diamo chiarezza. L'ho dovuto studiare perché così hanno 3 anni di tempo. Cioè, se entrano in Europa e accettano le regole, hanno 3 anni di tempo per arrivare a quella cifra che dici. Ah, per fare 180 milioni di mercato in uscita. Esatto, ti ricordo, non è mercato, è entrata, quindi già un po' gli entra dalla Champions. ma di Champions di quei 100 una parte poi venderanno qualcuno sicuramente. Questo è sicuro. In teoria Nico Paz dovrebbe andare sì, a 10 a Real Madrid. Su Nico Paz c'è questa cosa del magari però se vanno in Champions una recompra però 12. Pare no, ma pare, magari rimane a fare la Champions. Pare che ci sia qualcosa in più che giri. Comunque qualcun altro venderanno, ne hanno da vendere. Ma vendono un Baturina in premio da 70 milioni, esatto. Metà l'hanno già ripagato. Esatto. E hanno tre anni di tempo per rientrare nei parametri. Quello che ha fatto la Roma, l'Inter, altre squadre. Quindi se accetti questa cosa, e loro lo accetteranno, anche se uno dei due non c'è più. Uno dei nostri fratelli in settimana producendo una plusvalenza enorme, esatto, già quello, esatto, già quello ha portato su almeno 50-60 milioni sul macabro qua. E allora io ho un suggerimento per questi qua che sanno evidentemente lavorare e avranno anche qualche problema nelle liste, la composizione delle liste per l'Europa. Quello sì, deve quello, rispettare dei parametri. Quello è molto più problematico, nel senso che deve avere giocatori di crescita, nascita italiana e che hanno fatto le giovanili d'Italia e c'hai sempre Goldaniga. C'è un ma io c'ho Goldaniga. C'è un quanto vale Goldaniga? Sai quando fai gli scambi delle figurine? Ma magari Goldaniga vale 3. Ma quello allora, c'ha sempre Goldaniga. E ci sarebbe un giocatore italiano che viene da stagioni anche molto positive, che gioca nella stessa squadra da molti anni, che è uno che segna, è un esterno d'attacco, gioca con la 7 sulla schiena, ha bisogno di stimoli che non riesce più a trovare nella piazza in cui gioca adesso. Penso che con un 45 si porta a casa. Sì, infatti. Un 45 forse ti viene anche qualche cosa di resto. Il numero di casa inizia per 051, poi non me lo ricordo, dovrei controllare in rubrica. È cresciuto in Italia, è nato anche in Italia nella regione Marche ad Ascoli, quindi non ad so Ascoli. Se vale Rotella, la Champions a Rotella, allora se era Ascoli io c'ho Goldaniga Bellusci, non è di Ascoli e Bellusci, Goldaniga con un suggerimento che mi sento di dare al Como per questo è una grande Champions League l'anno prossimo ed è stata una bella top 5 e senti qua che base che c'è, è una base che ci porta a parlare di calcio europeo. E dove iniziare? Intanto dallo stacchetto. La la la la la la la la la la la l'autotune, sì, l'ha fatto per l'autotune, si è messo l'autotune diretto. E poi bello. Direi che potremmo partire dalla Serie B, calcio internazionale, vai, Serie B. Perché la Serie B si fa sempre più interessante. Vi ricordate quando il claim della Serie B era Serie B, il campionato degli italiani, come a dire che gli italiani sono di Serie B? Sì, è vero, può essere proprio un po' così. Continua la galoppata del Venezia, che in realtà cosa fa il Venezia? Non ha giocato? Ha pareggiato col Monza, era la sfida tra le prime due, e il Frosinone ha raggiunto il Monza, quindi in questo momento al secondo posto due squadre e ovviamente il secondo posto vale la missione alla Serie A diretta. Va a vincere in mezzo alle montagne perché vince con il Sultirol dove Raimondo sogna ancora. Raimondo il primo gol lo fa su una mezza sminchiata della difesa, lui si intromette nella zona, salta il difensore, il portiere col primo tocco dello stop e va in porta Frosinone che alla fine vince, sembra 3-1 la finale Sultirol che comunque una buona squadra in casa soprattutto si fa sentire. Raimondo è arrivato al nono gol e niente male vicino alla doppia cifra, non male. E segna ancora penso Guelemich il francese. Niente, io per Albini sono contentissimo, sono proprio un allenatore che mi piace. La piazza di Frosinone è una piazza con a capo un direttore e un presidente che ci sanno fare, quindi per me quelli che sono bravi nel loro lavoro vanno sempre a provini. Bravo Frosinone in questo momento se la gioca con Calò, che è uno dei miei giocatori feticcio dell'anno. Se la gioca con il Monza, ma anche il Palermo non è lontano, quindi può ancora salire visto che mancano un po' di partite. Poi Giampaolo, unico attaccante nel tutto il calcio professionistico italiano a quota 20 gol. È gravissimo come dato, è di una gravità incredibile, però lo riportiamo. Sì, sono 6 giornate credo al termine, mancano 6 partite, quindi le distanze. Poi Giampaolo dicevi? Sì. 21 ne ha fatto. 21. Lui. Io vorrei spendere una parola su una squadra che ha il penultimo monte ingaggi della Serie B ed è stabilmente in zona playoff da qualche anno. Parliamo della Juve Stabia, che progetto fantastico, progetto clamoroso, fantastico. Gran prestiti e grande oculatezza economica, parsimoniosi come gli scozzesi, hanno costruito una squadra e un sistema di gioco che funziona. Ignazio Abate in panchina, proprio lui, te lo ricordi? Vero. Ignazio Abate, 3 gol allo Spezia sabato scorso, 3 gnocchi giusti, 45 punti classifica, quello che basta per essere lì nella zona playoff. Cacciamani nello Juve Stabia, se non mi sbaglio, il ragazzino che era in Serie D fino ad un paio d'anni fa, perché uno dei convocati dell'Under 21 di Baldini, se non mi ricordo male, dovrebbe essere un giocatore che io ho visto live in Serie D, credo tipo, non so se era qualche paesino improponibile, adesso veramente mi sfugge, però sono molto contento di averlo su. Hanno anche Candellone, che è un altro mio giocatore felice. La Juve Stabia è una di quelle squadre che ti fa ancora piacere lo sport che segui, parlo proprio discorso largo, ti fa ancora piacere il calcio, perché come dice Fio è un progetto clamoroso, minuscolo, pochissimi soldi, pochi mezzi, ma sono sempre lì. Tra l'altro hanno anche Gabrielloni, a cui il Como ha rinunciato che poteva essere l'altro italiano e non c'è. Per le liste Champions, esatto, veramente forse contento torna. Per il Frosinone, forse bello, ci piace. Juve Stabia, appunto, Juve Stabia, che insieme a Catanzaro, Modena e Cesena sarebbero le squadre dal quinto all'ottavo posto. In realtà quelle sono abbastanza lontane dalla lotta per le prime posizioni. Il Catanzaro ha 52 punti, il Palermo, che è la quarta, ne ha 61, diciamo, sono due parti molto separate della storia. Il Cesena contro il Catanzaro di Mattia Liberali vince con Ashley Cole in panchina a seguito di quella strana operazione legata a fondi del Delaware che ha portato in panchina come sponsor, come testimonial. Però del fondo che detiene la proprietà del Cesena, Ashley Cole. A proposito di uno dei meme girati in settimana, non so se l'avete visto, il fatto che la Federazione Africana abbia deciso che la Sampdoria abbia vinto la Coppa d'Africa. Giusto, meritatamente anche. La Sampdoria ha vinto comunque contro l'Avellino, oltre che la Coppa d'Africa. Durissima contestazione dopo la sconfitta a Carrara in uno dei tanti derby carrarini gemellati coi genoani. Dopo magari parliamo anche un secondo della Coppa d'Africa, insomma, di quello che è successo. Se vi va, se potremmo parlare anche adesso, visto che comunque è calcio internazionale. Su Carrara, due paroline bisogna dire, perché a Carrara si sta mettendo in luce Luis Sasa, 22enne, 23enne, e di proprietà del Napoli, ex giovanili della Juventus, se non mi ricordo male, e sta giocando veramente da è un centrocampista di inserimento che ormai è a tipo quarto, quinto assist, e il numero di gol dovrebbe essere paritario, con numeri che cominciano a diventare importanti. Ieri praticamente l'ha imposta lui la vittoria della Carrarese a Bari sempre più ormai male. E a Carrara c'è anche quel centravanti lì che si chiama Abiuso, è uno di quei centravanti alti, un po' dinoccolati, non magari di primissimo taglio a livello tecnico, però è uno di quelli che segna, che fa sportellate, doppia che cifra, ti fa la squadra, esatto, capito? Uno poi c'è Rubino anche quest'anno. C'è Rubino anche insieme a lui. Napoli che l'anno prossimo si ritrova in squadra, se non scazzano, gente come Emanuele Rao, che è uno dei pochissimi notelieri di Bari, sono giovani di proprietà del Napoli, si ritroverà Puno Vergara, che sta guarendo dalla fascite plantare, si ritroverà Luis Sasa, cioè è un Napoli che può cominciare a inserire giovani del vivaio di una certa qualità, mi spiego? Sono questi tutti i nomi da segnalare, niente, esatto, male. E fai bene a segnalarle. Anche Rubino, giovane della Fiorentina, in prestito 2006, molto giovane, il più giovane del gruppo, quindi insomma è una squadra interessante. Bene, abbiamo chiuso con la Serie B e cambiamo campionato. Velocemente Coppa Africa, la mamma di Hakimi non vuole. Ha detto Hakimi: mia mamma mi ha detto che se mi danno una medaglia perché ho vinto, non è vero, quindi ridarla. A me piace assurdo, però dai, fai discutibile molto le tempistiche, perché dopo tot mesi, però insomma, se ci pensi bene, fu un gesto veramente brutto quello del Senegal di uscire dal campo. Tra l'altro ha generato la bolletta di Schrödinger, cioè la bolletta sulla partita vincente e non vincente contemporaneamente per 3 mesi. Clamorosa. È stata pesante. Come fanno pesante quelle giocate? Quelle che hanno già pagato, hanno già pagato. Vabbè, ti chiamano, scusa. Di solito guarda, dopo due arrivo, soldi. Guarda, ti riporto subito. Di solito dopo 2 o 3 mesi sei già andata a incassarla comunque, no? Statisticamente sì. E quindi chissà che se la prendono in saccoccia. Cambiamo campionato, andiamo in Inghilterra, dove c'è stata la finale di Carabao Cup, cioè la Coppa di Italia. Oh, e finalmente, perché c'eravamo un po' impauriti, perché sembrava che fosse cambiato il mondo, invece l'Arsenal decide di fare l'Arsenal. Perde. E perde, quindi, e quindi perde la Coppa. Primo tempo di una noia... clamoroso, cioè tipo Bologna-Lazio. Kepa ha fatto dei disastri, soprattutto sul primo gol, una roba. Cioè... Eh sì, e vince il Manchester City questo primo trofeo stagionale, è la coppa, la seconda coppa, diciamo forse il terzo a livello di importanza. Prima è la vera coppa, l'FA Cup è la prima, poi c'è lo scudetto e poi c'è questa che è, una volta si chiamava Coppa di Lega, poi cambia a seconda dello sponsor. La porta la Manchester City, quindi non giocano in campionato, rimangono comunque 9 i punti di vantaggio dell'Arsenal in campionato con una partita in più, quindi diciamo potenziali 6 punti di vantaggio da gestire in questo finale di stagione. Mancano 6-7 giornate. In Premier League il risultato più shock di tutti è forse direi proprio di sì, la vittoria esterna piuttosto pesante del Nottingham Forest sul campo del Tottenham. Eh sì, questo Tottenham che sta scivolando sempre più in basso, credo che abbia fatto un punto in 9 partite Tudor nella presenza sulla panchina, e lo ha fatto presentandosi a un suo collaboratore convinto che fosse Arne Slot, che fosse l'altro allenatore, è vero. E Nottingham Forest che comunque era penultimo, quindi insomma era una sfida salvezza tra due pericolanti, nonostante abbiano speso tanto, lo ricordava prima Dado, ad esempio Ndoye, spesa importante, una delle due bicampioni d'Europa. Sì, l'altra addirittura nella sua bacheca campione consecutiva, campione dell'Europa League, quindi il Tottenham campione dell'Europa League rischia di retrocedere. È vero che ha ancora un punto di vantaggio sul West Ham, però è proprio un punto e quindi a 7 giornate alla fine può veramente accadere tutto, soprattutto perché non vinci più niente, non fai neanche punti, quindi prima o poi qualcuno ti darà il conto, anche perché il West Ham ha perso contro l'Aston Villa. Aston Villa, gol di McGinn, quello che ci ha segnato esatto proprio poc'anzi diciamo quest'anno contro, e Watkins 2-0 tranquillo il so, derby no. Claret and Blue, esatto, il derby Claret and Blue, esatto, il derby delle maglie. Però la prossima, ad esempio, il West Ham gioca con Wolverhampton che è ultimo in classifica e quindi potrebbe con una vittoria superare il Tottenham che invece dovrà andare a Sunderland che ha vinto il derby col Newcastle al 90esimo, un derby sentitissimo, l'ho scoperto questa domenica. Sì, c'è il fiume in mezzo. Ammetto che non sapevo di neanche questa io cosa, però pare sia proprio sentitissimo, ho visto cose brutte. Proprio. C'è il fiume in mezzo, i due stadi sono tipo a 5 km. Quindi sì, St. James Park e lo stadio del Sand sono proprio lì, si vedono l'uno dall'altro e in mezzo ci passa il Tyne, questo come Liverpool e Everton sono abbastanza vicini. Sì. Però in realtà il match clou della prossima, del prossimo turno sarà Chelsea Manchester City, ovviamente dopo le pause. Sì, anche loro ovviamente ci avranno un po' di pausa da attendere. Si tornerà a giocare il 10 aprile appunto con West Ham Wolverhampton, l'Arsenal col Bournemouth. Squadra comunque di media classifica, Arsenal che ha comunque un grande vantaggio in campionato. Segnalerei anche la vittoria non affatto scontata per 2-1 del Brighton sul Liverpool con doppietta di Welbeck, giocatore che chissà quanto avrebbe potuto raccogliere più di così, perché secondo me è un giocatore che avrebbe potuto raccogliere ma è quel Welbeck? È quel Welbeck. Sì, proprio lui. Bene, chiudiamo la Premier League, passiamo alla Bundesliga, dove in una giornata si è segnato veramente un sacco, quasi quanto in Premier League. Se guardi i risultati potrebbe sembrare una giornata di Premier League. 4-0 il Bayern Monaco, 3-2 l'Hamburgo, pareggia 3-3 il Colonia col Mönchengladbach. Posso dire che secondo me in questo periodo storico il giocatore più forte del mondo è Michael Olise. È probabile, sì. E il Bayern comunque ha dato una bella dimostrazione di forza anche con l'Atalanta, insomma. Valverde e Olise in questo momento. I due più in forma in questo momento. Anche se Kane che balla nell'area piccola contro l'Atalanta. No, mi dispiace, uno che porta per taglio di capelli non avrà mai il mio voto. A me piace molto Eze, che ieri non giocava dell'Arsenal. Bellissimo giocatore. Sì, ha fatto gran bel gol in Champions, sì, un bel giocatore. Vabbè, torniamo alla Bundesliga. Bundesliga comunque insomma abbastanza definita, 9 punti il vantaggio del Bayern, c'è giusto il mio Colonia che sta lottando per non retrocedere di nuovo, e purtroppo se la gioca contro un'altra squadra a me simpatica come il San Paoli, una delle due sarà probabilmente quella che va a giocarsi lo spareggio, a dire la verità. Poi vabbè, c'è la però il punto guadagnato dal Colonia pareggiando anche con l'uomo in meno in casa contro il Mönchengladbach pesa, anche quello un mezzo derby, pesa perché il San Paoli perde in casa col Friburgo, quindi un punticino se non altro è andato. Andiamo a vedere invece in cosa è successo nella Liga. Avete seguito un po', c'era il derby, quindi l'avrete sicuramente seguito. Il Real Madrid vince 3-2, con dopo essere passati in svantaggio con gol di Lukman. Lukman che la ribalta. Che comunque Lukman il Real era andato in vantaggio, se non mi sbaglio. Poi vantaggio atletico. Ah, è vero. Vinicius è vero. E Valverde riportano su Dancos, Molina momentaneamente pareggia e poi ancora Vinicius Junior porta sul definitivo 3-2, prende un rosso diretto nel finale Valverde viene espulso nel finale della partita. Beh, fanfallaccio. Mancava quasi un quarto d'ora alla fine, sì, si è giocato l'ultima parte, una partita che definirei decisamente sciocca. In generale, però finisce così 3-2 e a questo punto le approfitta il Barcellona che vince col minimo sforzo con Rayo Vallecano 1-0 e anche in qualche modo il Villarreal, a suo modo il Villarreal, che vince e supera l'Atletico Madrid e ritorna al terzo posto. Ottima la stagione del Villarreal, vince 3-1 e ritorna al terzo posto, lo è, cioè, è stato per quasi tutto il campionato. Segnaliamo scorie del giovedì notte. Il Celta Vigo stava vincendo 3-0 in casa contro l'Alavés al 37esimo, alla fine perde 4-3. Ah, si è proprio sciolta anche lei, quindi insomma altre squadre che hanno fatto l'Europa League sofferto. Una menzione speciale a Radu in porta, che è un portiere che io non riuscirò a capire mai. Quel Radu. Nemmeno noi. In molti non lo hanno capito. Ancora non riesco a capire come ha fatto a stappare quel pallone. Vabbè, sì, parlavamo della Liga, hai detto tu bene te, questa impresa dell'Alavés che si tira fuori anche dalla zona retrocessione, 3 punti pesantissimi. Male il Siviglia, malissimo il Siviglia, perché nelle zone basse anche lei rischia, come si dice, il risucchio come il Tottenham. Perde in casa dal Valencia 2-0, rotondo proprio e abbastanza meritato. In questo momento è a soli 3 punti dalla 18esima posizione, con cui si va giù. Si è giocata la 29esima giornata, quindi ancora ce ne sono. Le Basche? Le Basche vincono 2 e una perde. Chi è quella che perde? Il Real Sociedad. Sì. Che era lì. E non poteva approfittare del passo falso del Celta Vigo, e invece Perché si segnala, perde col Villarreal. Si segnala la Liga, che la Liga aveva istituito la giornata del vintage. Cioè tutte le squadre scese in campo, non so se però era in Serie B, non ho capito bene se l'hanno fatto per la Liga B o per la Liga, però tutte le squadre erano in campo con le casacche vecchie, retro, no? L'intero kit, non soltanto le casacche. Qualcosa di carino, qualcosa di romantico, anche un sacco di porcherie. Ah sì, vabbè. Ragazzi, andiamo in Francia, dove ha segnato. Doveva succedere. Doveva succedere prima o poi. Doveva succedere per festeggiare la convocazione in nazionale di Coppola. Intanto è passato al Paris FC, esatto. L'assist lo fa Coppola per il gol di Ciro Immobile, il primo gol di stagione. Ebbene sì, 3-2 vince il Paris quell'altro, e lui fa contro Le Havre, squadra cara al nostro regista, vince 3-2 appunto, finalmente riesce a bollare. Diciamo che aveva fatto gol solo contro l'Inter su rigore. Non era un gol vero tirato proprio, molto bene, tirato però, molto bene, aveva tirato un rigore molto bene in stagione. Vince anche il Lens, oltre che il Paris Saint-Germain, quindi entrambi Paris Saint-Germain 4-0 a Nizza, ma anche il Lens 5-1, quindi sì, comunque sì. Bene, apre Tovin che continua a segnare. Ho visto un po' di Nizza Paris Saint-Germain, poteva finire veramente 10-0. Sì, tranquillo. Nizza tra l'altro è la prima delle salve in questo momento, con un non troppo rassicurante più 5 sulla prima delle retrocesse. Sono 5 punti che sono tantissimi, ma sei lì, sono tutte assolutamente. Ho visto il Nizza nella mia vita in una partita in casa, stadio pazzesco. si chiamava Allianz, non so se non si chiama ancora così, si chiama Allianz Riviera. Vedere che stadio ha pagato tipo 800 milioni di euro. Zona abbastanza, diciamo, ricca. Solvibili. I ragazzi pagano. Possono pagare. Se non sbaglio, è terminata la regular season del campionato belga. Alle Standard. Ovviamente, come finisce la regular season dello Standard Liegi? Con un bello 0-0. È giusto. Bella occhialata così. Metti caso che prendiamo questi tre punti che ci possono fare creare problema. Invece no, un bel 0-0 che tiene all'ottavo posto lo Standard Liegi e ufficialmente sarà nel girone Conference Zone. Dove succedono le cose. Mentre il Mechelen del nostro Simone perde 4-1 perché è un periodo così. Però rimane quinto e si giocherà le possibilità di vincere lo scudetto. Tifi per il Mechelen? Tifo perché mi rimase la simpatia quando si scontrò con l'Atalanta. E poi col Milan. Eravamo ragazzi. Giallorossi questa squadra. Sì, questa squadra che arrivava chissà, ripeto, parliamo di fine anni 80, credo. Quindi la guardavo con gli occhi di un ragazzino, questa squadra strana. Mechelen, nella seconda fase in cui i punteggi verranno dimezzati, potrebbe cercare giocare, non so, il Fil Rouge. Mechelen che si chiamava Malins in quel periodo, esatto. E poi Mechelen perché prende colori sociali rosso e giallo e rosso. E ci giocava intenso. Il famoso Bosman, esatto. Che esatto. Fece poi la Lega, cioè la legge Bosman, la mitica legge Bosman. Era giocatore del Malins. Simone, abbiamo 2 minuti e 58 secondi per parlare di San Benedettese, insomma, del girone C della serie C. Il girone B, perché il girone C è quell'altro. Allora, raga, un punticino, cioè la doppia trasferta a Ternana e poi domenica prossima Pineto, che raga va bene, perché da quello che si è capito il grosso problema di quest'anno è che i nostri giocatori non reggono la nostra curva. In che senso? Cioè si cacano addosso invece di caricarsi. E quindi noi sembra che dovremmo costruire la nostra salvezza in trasferta. E quindi se a questo punto che arriva negli ultimi minuti Gonzini, fino a quel momento uno dei peggiori, come un po' tutta la squadra, però riesce a raccapare questo punticino. Adesso si va a Pineto, che sono tosti pure quelli lì. Lo so che sembra strano dirsi che il Pineto, provincia di Teramo? Non mi ricordo, ma da quelle parti lì. Abruzzo. Quella parte, sì, Abruzzo. E raga, non so che dire, si va. Quello che mi fa stare ancora fiducioso è l'atteggiamento del nostro coach Boscaglia, che è effettivamente un allenatore di categoria, più uno che sa il suo mestiere, sa come navigare queste acque qui. E non è né negli Epstein Files né nel TikTok di Yankto, quindi, che sono i due posti dove succedono le cose scabrose. Quindi questo dovrebbe essere rassicurante. E raga, non so che dire, quest'anno l'annata è stata completamente sbagliata, ormai l'abbiamo detto e ripetuto per tutto l'anno. Vediamo come evolve. Siamo sempre lì a 2 punti dalla Torres a giocarsi la salvezza diretta. Se non dovesse essere salvezza diretta, sarà play out, dove si scontrerà, non so, contro il Bra, il Pontedera. Adesso non si è capito bene chi è che. Ma il play out è interno? È interno al girone o lo fai con le altre del girone? No, interno al girone, se non mi ricordo male. Dovrebbe essere interno. La classifica racconta quello che è stato tutto l'anno. Cioè, è tutto l'anno che noi giochiamo letteralmente senza l'intero reparto d'attacco. Che tra i vari problemi che ci abbiamo avuto è quello che spicca di più. Non segniamo, c'è un'enorme difficoltà anche solo andare a tirare. Ce l'abbiamo fatta stavolta con Zini, che infatti di lavoro fa il difensore. Quindi vediamo come, non so più che dire, le parole di bestemmie, di arrabbiature tutto l'anno le ho date, le abbiamo date tutte. Se il problema è che siamo esagerati come tifoseria, ed è un paradosso, non sappiamo che dirvi. Parlo ai ragazzi che indossano la maglia rosso-blu. Raga, vi tocca purtroppo giocare ogni domenica davanti a 6.000 persone. Non so se chi ci ascolta capisce quello che sto dicendo, però è così, il nostro problema è quello, perché in casa siamo molto peggio che in trasferta. Questa è la situazione, la prossima è in trasferta al Pineto, poi in casa con l'Arezzo, quello è facile. Ma l'Arezzo sarà già in Serie B, cioè, la speranza è quella. Che però dopo c'è il Pontedera in casa. Sono 5 punti di vantaggio per l'Arezzo sull'Ascoli, e quindi non credo che fra 2 giornate. E poi a Pesaro, sia già salvo. Poi il derby a Pesaro, l'ultima. Derby, ma che derby è? Peso è, non è Emilia Romagna, peso. Che derby? Che derby è? Cosa l'avevi speso? Peso non è considerato. No, ma non lo so, loro i primi che non ci si considera, mica, cioè, mica colpa nostra. Però ufficialmente. ufficialmente. A livello geografico. Geografico. Andiamo pure contro la geografia. Pure contro il pensamento. Ma sono loro che si considerano. Marche, maggiori, Marche, no? Regione plurale. Esatto, Marche, regione esatto. Plurale. Le Marche. Le Marche. Che è la Marca, è Le Marche. Però sarebbe un giornale del Barcellona. Oppure una zona del Trevigiano. Posso dire una cosa, visto che siamo in gaggio internazionale? Sì. Applausi ad Adidas, che ha presentato l'intera collezione dei kit away per le squadre nazionali mondiali, e sono tutte bellissime. Sono tutte veramente molto basic nel design, molto semplice, pulito, però sono veramente quella del Venezuela da trasferta, credo che la comprerò. Come penso pure quello di Curaçao, che sono veramente belle, belle, belle. Proprio a chiudere vi consiglio la lettura da ultimouomo.com, sito di approfondimenti sportivi ben scritto, bello. Il bello del giovedì sera, quello uscito questa settimana, il volume 13, contiene dentro delle perle di malinconia meravigliose. Bene, bene, con questo noi andiamo in pubblicità. Ultima parte di Caffè Paglia di quest'oggi, siamo pronti per parlare di altri sport, non prima di avere l'ultima cosa calcistica, non me ne voglio l'ultimi nessuno. 20 minuti di calcio, dai. No, 2 minuti, soltanto un appunto, soprattutto per te, Regi. Stavo guardando i convocati dell'Under 21 e il centrocampo l'intero reparto del centrocampo dell'Under 21 è nettamente migliore del centrocampo della nazionale maggiore. Io qua leggo Berti, D'Agasso, Faticanti, Lipani, Ndour e Venturino, che a livello di corsa, di intelligenza calcistica e di tocco stesso, secondo me è migliore del centrocampo dei vari Cristante, Locatelli, Frattesi e Compagnia Cantante. Poi vediamo. Allora, torniamo al 333-180-94-94 e parliamo di calcio. E parliamo di calcio qui su Barella. Mi assumo la mia responsabilità, ho comprato la sua maglia quest'anno e l'ho battezzato. È Tommaso che ce lo dice. Simone, per me hai ragione su tutta la linea, il problema non è Gattuso, è il paese. Come in tutte le cose, questo paese fa cagare. Te lo sei mandato da solo questo. Di cosa vuoi parlare? Settori giovanili, strutture inadeguate, patentini di allenatori rilasciate Coverciano visto come un fiore all'occhiello, ecco, questo è un problema, un fiore rosa. Appassito, dice, convocare Frattesi, te lo dico da interista, è una mossa senza senso, sembrano convocazioni fatte dai procuratori più che da un selezionatore. Gattuso non gliele voglio, ma su, buttiamola in cacciara, ma a pallone per cortesia, le bocce, scopone scientifico, niente da dire, ha ragione su tutto, allora, raga, siamo troppo pessimisti, speriamo. Bene. Bravi ragazzi, sempre trasmissione divertente, è un grande piacere sentire anche una certa voce che sta lì con voi. Bene, la voce, il ritorno della voce del regista, voce storica di questa emittente che sta compiendo 50 anni, quindi insomma, giustamente. Caspita. L'emittente, io l'ho già compiuto. Lo avevamo capito, beh, questo è uno spoiler che non ci meritava, cioè gli ascoltatori. No, però vabbè, non era così. Bene, giusto. Grazie comunque. Giusto, grazie per ricordare. Bene, a questo punto chiudiamo la pagina dedicata al calcio e ci buttiamo in quella dedicata al basket, perché noi seguiamo anche il basket, sempre abbiamo spazio per il basket. Casualmente questo fine settimana ha perso la Virtus e ha vinto la Fortitudo, ma proprio casualmente noi, cioè proprio quando avevamo già deciso nella riunione di redazione della settimana scorsa che in questa settimana avremmo parlato di basket, no, a parte gli scherzi, Virtus che perde contro la bestia nera, la sua bestia nera, Reggio Emilia è scomoda, è una squadra che gli crea spesso qualche problema, comunque ancora prima in classifica, insomma, ovviamente viene raggiunta da Brescia, però ha lo scontro diretto a favore, quindi rimane prima in classifica. Vedo che Milano è salita al terzo posto e quindi, mentre fino alla settimana scorsa era al quarto posto, dopo aver perso contro la Virtus, una grande prestazione, è vero, e era appunto rimasto al quarto, adesso è terzo, giusto perché cambia il fatto di avere o non avere la sfida Milano-Virtus, che è la sfida, insomma, che tutti si aspettano in finale. Se rimane quarta Milano, la incontra prima, non ci può essere la finale. Vince invece la Fortitudo, casualmente in questa giornata proprio in cui noi abbiamo deciso di parlare di base, vince la Fortitudo dopo supplementare, guardando il risultato non si direbbe. perché è 78-76. Sì, non sei supplementare. Dopo un supplementare. Quando era finito? 40-40 la partita. Mamma mia, che partita, ragazzi. Partita, diciamo, mamma grandi difese, di lotta. Tra l'altro con Rimini che è in vantaggio quasi tutta la partita, cioè insomma, la partita veramente pure combattuta, combattuta per fare 78-76 dopo un supplementare. quindi insomma si era finita 68 pari. Mamma mia, ragazzi, nei quarti. Ma è il record, cioè, ma si la partita a peggio ancora. Ti preoccupare. C'è stato delle partite finite a 110. La somma, io sono abituato che quando c'è i supplementari almeno uno è andato sopra i 100. Di solito più o meno succede. Quello. Questo potrebbe succedere, però quando poi dominano le difese. Difese, esatto, un po' modello football americano. Questo è quello che accade. Prossima giornata la Fortitudo gioca contro Pesaro che è in vetta alla classifica. La 2 ovviamente ha la prima che viene promossa direttamente e le altre che vanno a fare un eterno playoff. Ovviamente se vuoi avere ancora delle possibilità e delle speranzielle, anche se piccole, di potertela giocare, devi vincere a Pesaro. A Pesaro, cioè devi andare là a vincere. Lo e in Romagna lo sappiamo. Io senza introdurre elementi scaramantici vorrei che la Rai non trasmettesse in chiaro la partita. Anch'io preferirei questo, quindi è un derby, dici, derby regionale. Beh, certo che è un derby regionale. Anzi, una emiliana e l'altra è romagnana, perfetta. Proprio perfetta, situazione. Perfetta. E, per quanto riguarda invece il basket NBA si sta andando verso... è quello che ci interessa perché le voci che circolano sono da paura. Sono quelle che insomma riportano un grande nome del basket. Io posso impazzire, lo dico. Agli 80. Io ce l'ho la loro canotta, lo sai. Mi chiedo però, nel caso in cui, come si dice, sembra ormai quasi sicuro che ritornerà il Seattle Supersonics. Mamma mia, senti com'è bella sta frase, ripetila. Ritornerà in NBA Seattle Supersonics. Non so se si riprendono la bacheca che hanno ceduto a Oklahoma, che adesso ha un titolo, cioè, che adesso cioè, ha un titolo, anzi, è campione in carica, titolo degli anni 70. Ti dico di più, ci riprendiamo contro l'intero quintetto finale, vado a memoria contro Washington. Non me la posso ricordare, era giovane, era proprio piccolo. Ma se invece ci prendessimo proprio l'intero roster di Oklahoma, Potrebbe essere già questo attuale, sai, Shai, Gilaus, sì, Alexander, così sarà interessante perché ritorna il draft delle squadre nuove, quindi ogni squadra a fine stagione dei giocatori che ha sotto contratto dovrà decidere e bloccare 8 giocatori e le squadre, le due squadre nuove che dovrebbero essere Seattle Las Vegas. Andranno a pescare, diciamo, il nono uomo da ogni squadra. In realtà a volte il nono uomo non è così scarso perché i contratti e cose del genere, insomma, in quello ci sarà. Noi ci riprendiamo Kevin Durant, riprendiamo Shai Gilgeous-Alexander e poi vediamo. Poi vediamo. Non c'è grande hype sulla Las Vegas dei fratelli Artono, no? Ma chi se ne frega? Sono loro, l'hanno preso a loro? Sarebbe bellissimo. Las Vegas dei proprietari del Como. Che si sono già presi i Raiders nella NFL negli ultimi 3-4 anni. No, parlo di Las Vegas. Las Vegas, giusto, sì, è squadra che comunque appunto in quel caso entrerà. Di Las Vegas c'era una grande università, c'era un grande tifo per il UNLV e a quel punto torniamo nel basket perché in questo momento ci sono le March Madness, è vero. La finale del campionato universitario, alcune NCAA, esatto, lì in quel caso lì c'è un bel tabellone gigantesco che porta a una Final Four, alla vera Final Four di solito a fine marzo, inizio aprile. Per chi simpatizzi, Simone? Oddio, non saprei, quando ero piccolo sentivo parlare di North Carolina perché appunto Jordan arrivava da lì, non saprei, Duke perché c'è Duke, canotta, Duke no? C'è anche un italiano quest'anno, quindi... Duke, mi ricordo addirittura si vinceva la canotta raccogliendo i punti di qualche merendina di quando eravamo ragazzini, quindi mi era rimasto un po' impresso, diciamo così. Poi forse Michigan, però forse Duke, proprio per la maglietta che si vinceva con quei prodotti, adesso non mi ricordo qual era la merendina, però anche lì parliamo di fine anni 80. Ricordo cose del genere. Io segnalerei comunque sconfitta da Texas, i Gonzaga Bulldogs di Gonzaga in provincia di Mantova, che fanno se non ricordo male l'università di John Stockton. Può essere Gonzaga e Radio Stockton. Bravo, bravo, vedo. Vado a memoria, ti vedo preparato. Stato di Washington, comunque lì, in quel pezzo oceanico di qua. Ho perso, ci sono già storie bellissime. Vi consiglio di andarvi a cercare Kareem Abdul-Jabbar. Crema Abdul-Jabbar, che è un giocatore che purtroppo è stato eliminato al primo turno, però è veramente, sembra un po', allora, il fisico di Jokic, la faccia di un secchione proprio vero. Infatti l'altro nerd, soprannome nerd. È Larry Nerd. Però sa giocare a basket. Ma quello con gli occhiali? Con gli occhiali. Ah, no, sa giocare, a basket. E devo dire, molto divertente. Passa la palla bene. Quindi, in questo ricordo un po' Jokic. Non so se riuscirà a sfondare in NBA all'ultimo anno. Oppure potrebbe venire in Italia. Sarebbe simpatico da vedere in Italia. L'altra particolarità, ho perso il nome di un giocatore che in stagione ha avuto il 50% da tre punti, di tiro da tre punti, e 0 su 4. Da due punti, cioè nel senso ha tirato quattro volte in tutta la stagione da due punti. Il primo canestro da due punti segnato lo segna allo scadere della partita e fa vincere la squadra. Quindi storia americana, il primo canestro da due punti della stagione è quello che ti porta avanti. La testa di serie numero 1 è già saltata, cosa molto classica nel mondo delle March Madness, che è appunto solo follia, proprio pazzia anche per questo, perché spesso chi è favorita va, non riesce subito, sì, ad andare via subito, e quindi ancora un po' di, è appena iniziata, quindi insomma si può giocare per tutto, si giocherà per tutto marzo. Non trovo Kareem Abdul-Jabbar, poi mi dovrei spiegarmi. Vabbè, tra l'altro, uno dei primi delle prime grandi superstar dell'NBA, George Mikan, portava gli occhiali, parliamo di anni 40, Minneapolis Lakers, poi Los Angeles Lakers. Questo c'ha degli occhiali proprio fondi, quelli spessi con collo anche, di bottiglia. Ce l'aveva anche George Mikan, se ti vai a vedere le foto dell'epoca. Può essere. Prima grande superstar dell'NBA. Esatto. Vedo che Fio ci sta portando, vuole portarci in un altro sport americano, diciamo di base, ma non solo americano. Perché ci vuoi parlare di baseball? Parliamo di baseball. Perdono in finale gli Stati Uniti, di per sé una notizia che ci rallegra. Vince il Venezuela, che viene subito Venezuela che viene intortato immediatamente da Trump già durante i festeggiamenti, in questa chiave di riscrittura dei rapporti di forza geopolitici attraverso un soft power sportivo che puzza di bruciatissimo, ma vince il mondiale di baseball, sì, World Baseball Classic. Che ha eliminato l'Italia, che elimina l'Italia in semifinale e riesce a battere gli Stati Uniti, battuti anche dall'Italia durante il torneo. Quindi insomma rimane una storria incredibile, quella del baseball italiano, devo dire, degli sport in generale. Baseball, il rugby, abbiamo battuto l'Inghilterra per la prima volta nella storia. La Ferrari pare essere una buona macchina. Abbiamo un pilota italiano di Formula 1 bolognese. Italiano. E a calcio? E a calcio? E il discorso era quello. Chiudiamo così. Non possiamo volere tutto, questo è il discorso. Dobbiamo devi abituarti al fatto che siamo un paese fortissimo in tutto, multisport, gli altri sport fortissimi. MotoGP al volo. Chi ha vinto? Dimmi chi ha vinto. L'hai italiano sicuro. Con che modo? Aprilia, clamoroso 2 Aprilia in testa al mondiale, al terzo posto la KTM di Acosta. Ducati è partita così. A raccontare questa parabola anche il fatto che Marquez è giù dal podio dopo un bellissimo duello con Fabio Di Giannantonio, che va a chiudere il podio ieri. Così, han passato. Beh, giusto, no? Anzi, stiamoci un attimo, visto che abbiamo ancora qualche minuto e abbiamo la possibilità di vedere. Quindi, insomma, eravamo usciti con una Ducati clamorosa, e adesso invece abbiamo la Aprilia clamorosa. Allora, una foratura ha impedito il risultatone nella scorsa gara a Marquez. Un duello con Giannantonio perso glielo impedisce questa volta. Bagnaia deve ancora prendere confidenza con la moto e non finire nella ghiaia, sarebbe già un buon modo per prendere le misure con il mezzo nuovo, ma aprile a parte fortissimo, il progetto era già in grande crescita l'anno scorso, il finale di stagione ce lo ricordiamo tutti, anche un bel bracket di piloti, specialmente il team ufficiale, oltre a Bezzecchi grintosissimo, fa la gara lunga perfetta ieri, c'è anche Jorge Martin che comunque ricordiamo che i numeri ce li ha, il ragazzo i numeri ce li ha. Bene, bene, questo per quanto riguarda le due ruote col motore. In realtà, se vogliamo, anche quest'altro c'è il motore, cioè, forse c'è anche lui. No, però se vogliamo, erano i due sport, si diceva una volta che i due sport italiani per eccellenza erano il ciclismo e il calcio. Dicevamo ciclismo e calcio. Sì, sì. Sono i due in cui non andiamo più noi italiani in maniera particolarmente forte. C'è stata la Milano Sanremo, una delle la classica di primavera, quella che apre il calendario ciclistico, e c'è stato un altro show clamoroso di uno che sembra abbia un motore che va in bici, ma come la prima. Da quello che si legge gli mancava soltanto la Milano-Sanremo e la Parigi-Roubaix. C'ha la Parigi-Roubaix, poi dopodiché ha vinto tutto. Tutte, perché Tadej Pogacar, lo so che magari è un po' stancando, ma questo continua a macinare chilometri, avversari, come se nulla fosse. E lo fa nella maniera più come particolare. Cade, si riprende, vince una gara che non è così semplice da vincere, non c'ha stacchi così grossi, ma proprio di potenza. Questo campione proprio, campione veramente, questo sì. Appartiene, siamo nella categoria dei Jordan, dei Brady, cioè proprio i dominanti del proprio sport, cioè siamo veramente molto oltre il livello. Eh sì. Più tutti i tour che ha vinto, tutti i giri d'Italia che ha vinto. Ora, rimanendo nel campo dello sport, abbiamo ancora un minuto, due. Sì, sì. E vogliamo salutare per bene un ex campione del mondo nella sua categoria, che erano appunto le arti marziali, perché lo so, ha intenerito tutto il mondo, ma ci ha salutati Chuck Norris. E che fa, non lo vuoi salutare al nostro Chuck? Ma vuoi, non vuoi salutare l'entrata di Lobotka a Foro Russo era in onore di Chuck Norris. Esattamente. L'ha fatto pensato per lui. Esattamente. Giusto. Chuck ci saluta, noi lo salutiamo, ma gli vogliamo dire, se ci può ancora sentire, che i suoi meme esisteranno per sempre. Grande è, già, è già pronta la tipica immagine di Fazio dal Valhalla insieme a Umberto Bossi, Sandra Raimondo, l'Ayatollah, e c'è anche lui. È arrivato anche lui. È arrivato anche lui. C'è anche Al Kogan. Al Kogan, cioè, sicuramente Al Kogan. Qualche minuto, perde Alcaraz. Alcaraz inizia il super. Io aspetto al bar. Perde ancora Alcaraz e Sinner può, visto che l'anno scorso Sinner era praticamente squalificato in questo periodo dell'anno, quindi tutti i punti che farà adesso li va a guadagnare. Il fatto che Alcaraz esca fuori presto è una possibilità in più per tornare numero uno. Ma non mi guardare questa faccia come se io fossi incuriosito. Allora ci riprovo. Abbiamo vinto 5 medaglie ai mondiali indoor di atletica leggera. E questa è una buona cosa. Questa è una grande cosa. Questa è una cosa che ci piace. Questa ti piace. Nel salto in lungo stiamo diventando dominanti, un po' come nella pallavolo. Allora, se tu mi dici che adesso arriva un italiano e riesce a battere addirittura Duplantis, io ci posso credere. Sono felice. Questo è impossibile. Sono felice. Però qui, in questa aula, in queste quattro mattonelle, non si parla di volley e di tennis. Invece si parla di sport in cui è previsto una rete che separa i contendenti. Un attimo di tennis dobbiamo parlare, perché il prossimo avversario di Sinner, il francese Moutet, è entrato nella leggenda per bestemmioni in seguito a cellulare che suona durante un incontro, ma il telefono era il suo. Beh, idolo. Allora già un idolo. Assolutamente un idolo. Non potevamo non citare questo momento assolutamente. Cinematografico. Esatto, di volte. E quindi insomma questo sarà l'avversario, il prossimo avversario. Però siamo quasi verso, ma io se non vado ai mondiali ammazzo qualcuno, ecco, ve lo dico. Mi sembra giusto per tornare a trovare uno spazio, così per capire che lo sport è un gioco. Ma quale gioco? Poi siamo 12 anni senza mondiali, ma che dici, Ingo? Nel frattempo la Sandro rischia di, guarda, cioè, potrebbe essere un dramma per te. Tutti volevi giocare gli spareggi con Venturino titolare. Guarda che Venturino è forte. Il dramma è che si è fatto male Vergara, quello è un vero dramma. Vergara, adesso non c'è tempo, la prossima settimana vorrei sapere i tuoi 11, cioè con quale squadra saresti andato a affrontare l'Irlanda del Nord. Quanto tempo ci abbiamo? No, ma adesso è finito, ormai non manca un minuto. È una chicca per la prossima. Niente, per la prossima, oppure per la nostra pagina social. Potresti prepararla. So che D'Agasso la inseriamo nella pagina social. Ve lo dico a voi, io Matteo D'Agasso l'avrei portato in Nazionale Maggiore. Tu D'Agasso? Sì. Assolutamente no. Ma non sa nemmeno chi è, no, ma non sa nemmeno chi è, che dici di no? Beh, comunque ne parleremo tanto. Ne parleremo tanto durante la prossima puntata. Ci siamo poi gli ultimi 30 secondi, Mingo. Proprio 30 secondi, cosa abbiamo? Abbiamo qualcosa di calcio da aggiungere. Padel. Padel va bene. Mondiali a Cancun. È prototipo del tennis. Vincono i favoriti. Una delle due coppie è di italiani. Anche quella, no, allora basta, abbiamo anche del padre. Dai, vabbè, allora chiudiamo la trasmissione. Dai. Ciao!